Bentornati a tutti, carissimi, o meglio, benvenuti al primo incontro biblico di questo anno 2016-2017 sul Vangelo di San Matteo. Sapete che il Vangelo di San Matteo è quello che ci accompagna durante quest'anno liturgico, che è il ciclo A. E iniziamo questo ciclo di incontri, ecco, appunto nella settimana che precede il Santo Natale, appunto perché in questo incontro introduttorio affronteremo una presentazione generalizzata del Vangelo secondo Matteo, dell'Evangelista San Matteo e anche andremo a vedere i Vangeli dell'infanzia nella redazione di San Matteo, cioè la genealogia di Gesù e il ciclo di San Giuseppe. E sapete che San Matteo è il primo dei tre Vangeli cosiddetti sinottici, si chiamano appunto Vangeli sinottici perché sembra, no, non sembra, scusate, si possono dal greco synossi, possono essere oggetto di uno sguardo d'insieme, nel senso che contengono delle larghe parti che sono praticamente quasi identiche, quindi degli episodi simili, a volte delle espressioni assolutamente uguali, mentre San Giovanni forma un mondo a parte rispetto ai tre sinottici. Sapete che questa somiglianza da sempre è stata oggetto di studio da parte degli interpreti e tutti sono concordi nel farla dipendere da una fonte comune. Questa fonte comune che non sempre sanno che cosa sia, ma sembra quasi certo che, almeno secondo certe interpretazioni di alcune esegeti che io condivido alla perfezione, che dovrebbe essere proprio San Matteo stesso, nel senso che prima di redigere l'attuale Vangelo, che adesso vedremo, scritto chiaramente in greco, il greco che a quei tempi era la lingua internazionale, così come l'inglese di oggi, e fu scritto in forma assai ridotta in aramaico, e che probabilmente rappresenta questa fonte comune da cui gli altri evangelisti poi hanno attinto il materiale che condividono gli uni con gli altri. San Matteo sappiamo che nacque a Cafarnao tra il 4 e il 2 avanti Cristo e che fu martirizzato in Etiopia il 24 gennaio del 70 d.C. La festa si celebra il 21 settembre, il momento in cui il corpo fu traslato nella cattedrale di Salerno, di cui è il patrono e dove è tuttora venerato. Sappiamo dai Vangeli che era detto anche Levi. E faceva il pubblicano e era seduto appunto al banco da pubblicano quando Gesù lo incontrò, lo chiamò e immediatamente lui, ascoltato Gesù, lasciò la sua vecchia vita, quindi si convertì, fu aggregato al gruppo dei dodici e dopo la risurrezione e l'ascensione appunto predicò il Vangelo nelle parti dell'Africa settentrionale, appunto in Etiopia, scrisse il Vangelo in forma definitiva, che è un Vangelo molto, molto lungo, quello di San Matteo, perché contiene ben 28 capitoli, che ne fanno il Vangelo più lungo di tutti, molto adatto per la catechesi, perché è il Vangelo più dottrinale, dove compare anche attraverso un'articolazione molto, molto, molto saggia, molto sapiente, come vedremo, un esaustivo, diciamo così, quadro di quella che era la dottrina insegnata da Gesù. Il destinatario principale di questo Vangelo sono gli ebrei convertiti al cristianesimo. Vedremo che è proprio un tema tipico di San Matteo, proprio quello di concepire Gesù come l'atteso di Israele, quindi inviato ad Israele, che dovrebbe essere il primo a riconoscerlo in quanto compimento delle promesse dell'Antico Testamento. Ecco, il Vangelo di San Matteo presenta anche tutta quanto una serie di importanti indicazioni circa l'adempimento delle promesse delle scritture in Gesù. Ci sono le cosiddette, si chiamano così, citazioni di compimento che compaiono continuamente, nel Vangelo di San Matteo. Questo avvenne perché fosse adempiuta la scrittura, questo avvenne perché fosse adempiuta la scrittura. È proprio una cosa su cui San Matteo indugia per mostrare e dimostrare che a chi poteva capirlo, ovviamente, quindi innanzitutto agli ebrei, che Gesù era l'atteso il promesso fin dai tempi dell'Antico Testamento. Che cosa succede? Ecco, il Vangelo di San Matteo si chiude con andate a tutte le genti e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo termine tecnico, tutte le genti, che si contrappone a quello che Gesù nel Vangelo nel capitolo 10 dice agli apostoli. E quando li manda in missione dice: non andate tra i pagani, ma andate tra le pecore perdute della casa di Israele. Quindi, in conseguenza del rifiuto da parte della maggioranza di Israele, salvo un piccolo resto, un piccolo gregge che lo accoglie, causa, diciamo così, l'apertura e quindi l'invio degli apostoli e quindi l'apertura dell'annuncio del Vangelo a tutte le genti, a tutti quanti i pagani. Questa è una cosa tipica proprio di questo Vangelo e che corrisponde in effetti a quello che è stata la realtà storica dei fatti. Alcuni numeri di questo Vangelo, ecco, ci sono alcuni numeri che sono importanti per l'Evangelista San Matteo, che sono il numero 3, il numero 5 e il numero 7. Sappiamo che il numero 3 è il numero della perfezione, 3 è il numero della Santissima Trinità. Nell'Evangelista San Matteo troviamo tre tentazioni, tre apparizioni angeliche a San Giuseppe, come vedremo più tardi. Tre gruppi di miracoli comprendenti ciascuno tre miracoli. Ecco, per fare questo triplice trittico, addirittura San Matteo vedremo che ha accorpato l'emorroissa e la risurrezione della figlia di Gairo in un unico episodio. Quindi i miracoli in realtà sarebbero 10, ma attraverso questo artificio redazionale sono raggruppati per tre gruppi di tre, proprio per conservare questo trittico molto importante, capite? Perché 3 per 3, per quanto riguarda i miracoli, vuol dire i miracoli sono espressione della perfezione divina di Gesù al quadrato, d'accordo? Quindi che più di questo non si può, no? E tre annunci della passione. Poi il numero 5, ecco, il numero 5 è un numero sacro perché 5 ricorda esattamente le piaghe che Gesù ha ricevuto sul suo corpo, le mani, i piedi e il costato. E quindi nel Vangelo si trovano cinque grandi discorsi di Gesù, molto lunghi, il primo addirittura che occupa ben tre capitoli, l'ultimo, quello escatologico, due, e cinque grandi sezioni narrative. Proprio l'alternanza tra discorsi e sezioni narrative, come vedremo tra poco, è una caratteristica fondamentale del Vangelo di San Matteo. E poi c'è il numero 7. Gesù racconta sette parabole, ecco nella sezione appunto dedicata al discorso parabolico, e moltiplica sette pani e sette pesci. Avanzano sette ceste dalla moltiplicazione dei pani, perdona 70 volte 7 e troviamo sette spiriti che tentano di rientrare nella casa dopo che è stata liberata. Quindi quando Gesù guarisce un indemoniato, poi spiega che se la casa non viene custodita, quel demonio va a cercare sette altri spiriti peggio di lui e tornano all'assalto di quella casa. Se uno non sta attento, la condizione finale diventa peggiore di quella precedente. Vediamo ora alcune caratteristiche, ecco, del Gesù, soprattutto, che compare nel Vangelo di San Matteo. Anzitutto Gesù è il nuovo Mosè, quindi come Mosè fu il maestro, ecco, del popolo di Israele, fu il mediatore dei voleri di Dio, fu anche colui che prese i comandamenti e li consegnò a Israele, così, e questo si vede benissimo nel primo grande discorso di Gesù, che è il discorso della montagna, appunto come Mosè andò sul monte, così Gesù dalla montagna ammaestra e promulga la nuova legge. Avete inteso che fu detta agli antichi, ma io vi dico. Quindi una legge che al tempo stesso ribadisce, però completa e infine supera l'antica. In due sommari, al capitolo 4 e al capitolo 9, San Matteo sintetizza appunto l'attività di Gesù come colui che insegnava nella sinagoga, predicava il Vangelo del Regno e compiva i miracoli. Quindi la predicazione e l'insegnamento come due componenti essenziali dell'attività pubblica di Gesù. Appunto, predicava e guariva gli infermi. Gesù compare nel Vangelo come il grande terapeuta che guarisce gli infermi, quindi incaricato di combattere questa forma di male che è appunto una conseguenza, un segno della presenza del peccato nel mondo e che Gesù viene a distruggere con il suo potere terapeutico. Come già detto, Gesù si rivolge al popolo di Israele con la citazione di compimento e è accolto soltanto da questo piccolo resto. Ecco qui la particolarità che formerà la Chiesa. Ecco, pensate che il termine ecclesia, il termine, compare solo nel Vangelo di San Matteo e compare per la prima volta, pensate, quando San Pietro, riconoscendo Gesù come il figlio di Dio, riceve da lui tu sei, le parole: tu sei Pietro e su questa pietra formerò la mia chiesa. Quindi la fede di Pietro con il piccolo resto, prima i 12, poi i discepoli, che gli vanno dietro, forma questa primizia del regno di Dio, altro grande tema del Vangelo di San Matteo, quindi Gesù che compare anche come il nuovo e vero Davide, che inaugura questo regno di Dio sulla terra, di cui la Chiesa è appunto un nucleo, un inizio, e che è destinato ad allargarsi, come vedremo poi, ad aprirsi ai pagani, appunto in conseguenza della chiusura della maggior parte di Israele, che purtroppo rifiuta, contesta e si chiude all'offerta formulata da Gesù. Dicevamo che ci sono cinque grandi discorsi di Gesù, articolati appunto in cinque distinte sezioni. Abbiamo anzitutto il discorso della montagna, capitoli 5 e 7, è stato giustamente chiamato la Magna Carta del Cristiano. Abbiamo poi il discorso missionario, in capitolo 10, in cui Gesù appunto invia gli apostoli a due non ai pagani, ma alle pecore perdute della casa di Israele, con gli apostoli che assumono in questa circostanza la veste di altri Gesù. Chi accoglie voi, accoglie me, dirà Gesù. Il discorso in parabole, capitolo 13, che fa vedere come Gesù parlava alle folle, quindi la differenziazione della predicazione, diciamo, alle folle rispetto a quella che poi in privato Gesù faceva ai discepoli e agli apostoli, che già avevano lasciato tutto e dato tutto a lui, no? Poi abbiamo il discorso ecclesiale o ecclesiastico, se preferite, subito dopo, al capitolo 16, c'è il riconoscimento di Gesù nella sua qualità di figlio di Dio vivente da parte di San Pietro, un capitolo ancora, e poi nel 18 c'è il discorso ecclesiale, che è appunto quello rivolta, in questo capitolo compare per la seconda volta il termine chiesa, perché è appunto rivolto a coloro che fanno parte di questo popolo che è l'inizio del regno di Dio sulla terra e che spiega come Gesù vuole che sia formata appunto questa chiesa e come vuole che viva in quanto primizia del regno. Infine l'ultimo discorso, anche questo abbastanza lungo, due capitoli, in cui Gesù getta una luce e uno sguardo su ciò che avverrà alla fine del mondo e della storia. Poi, dopo i discorsi di Gesù, diamo un attimo uno sguardo ai miracoli di Gesù. I miracoli, come accennato prima, in totale sono 10, però sono divisi in tre gruppi di tre, in uno dei quali, ecco, come già accennato in precedenza, Gesù ne compie due, appunto l'emorroissa e la figlia di Gairo. Abbiamo il primo gruppo di miracoli, la guarigione del lebbroso, del servo del centurione e della suocera di Pietro, nella prima parte dell'ottavo capitolo, dai versetti 1 al versetto 17. Il secondo gruppo, la tempesta sedata, l'espulsione dei demoni e la guarigione del paralitico, seconda parte del capitolo 8, dal versetto 23 fino alla fine, prima parte del 9, fino al versetto 8. Il terzo gruppo, appunto, l'emorroissa e la figlia di Gairo, i due ciechi e il muto, dal capitolo 9, dal versetto 18 e 34. In due capitoli vengono quindi concentrati tutti questi miracoli compiuti da Gesù durante il lasso della vita pubblica. Quindi notate anche l'ordine con cui, ecco, San Matteo, ovviamente persona molto molto intelligente, procede nella presentazione anche di questo aspetto fondamentale dell'attività di Gesù. Nel capitolo 13, come accennavamo, c'è il cosiddetto discorso parabolico, quindi la presentazione delle sette parabole di Gesù secondo il Vangelo di San Matteo. In queste parabole si affronta il grande tema del regno dei cieli. Abbiamo la parabola del seminatore, in ordine di apparizione, presentiamo la parabola della zizzania, il granello di senapa, il lievito, il tesoro nascosto, la perla preziosa e infine la rete gettata nel mare. In questa ultima parabola si trova la cosiddetta firma di San Matteo, firma tra l'altro in cui io mi riconosco. Quando Gesù, commentando e concludendo il discorso parabolico e chiedendo ai discepoli: avete capito tutte queste cose? E loro rispondono di sì, dice: ecco, per questo ogni persona che diventa discepolo del regno dei cieli, ogni scriba che si fa discepolo del regno dei cieli, dice, è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È una cosa molto bella che fa comprendere anche come l'insegnamento di Gesù si situa da un lato in continuità con l'Antico Testamento, quindi le cose antiche, dall'altro in discontinuità, perché c'è qualcosa, ecco, di nuovo, no? Ecco, colgo qui l'occasione, ecco, per dire una parola sullo spirito autenticamente cattolico, ecco, perché veter et nova, che sarebbe la variante latina di cose antiche e cose nuove, è proprio il distintivo perpetuo, ecco, della Santa Madre Chiesa Cattolica, che non può essere non legata alla tradizione, come qualcuno vorrebbe, quindi considerare il passato semplicemente come oggetto arcaico o da museo, perché non è assolutamente possibile, però non può essere semplicemente, non può vivere semplicemente del legame con ciò che era antico. Ma nel corso del tempo la Chiesa non è che cambia, ecco, la Chiesa non cambia mai, ma si rinnova, ecco, in parte approfondendo, ecco, il dogma e il mistero che vive, in parte, come dire, trovando delle formule e delle possibilità di dialogo con le varie situazioni storico-culturali con cui si trova a interagire. Ecco, per cui sapete, chi vi parla è allergico sia al tradizionalismo a tutti i costi, quindi. E ovviamente anche al modernismo becero, ecco, che vorrebbe appunto considerare tutta la tradizione della Chiesa come roba appunto da archiviare e da consegnare in qualche museo, non dico museo diocesano che sarebbe un po' troppo piccolo, ecco, forse in un museo magari Vaticano, che tra l'altro già esistono i musei vaticani, qualcuno ci vorrebbe mettere 20 secoli di storia della Chiesa, insomma, capite che sarebbe una cosa totalmente ridicola. Prima di passare ai Vangeli dell'infanzia, quindi una parola conclusiva sulla struttura del Vangelo, che possiamo sintetizzare in questo modo. Una parte introduttiva, i primi quattro capitoli, che da un lato contengono la genealogia, scusate, i Vangeli dell'infanzia di Gesù, che vedremo tra pochissimo, e poi la prima manifestazione di Gesù attraverso la predicazione di San Giovanni Battista, il battesimo e le tentazioni nel deserto. Quindi fino alla metà del capitolo 4, la prima parte del capitolo 4 appunto afferma il tema delle tentazioni. E al capitolo 4, versetto 17, comincia, diciamo così, la prima parte del Vangelo. Abbiamo Gesù che comincia il ministero e dice queste parole: da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi la proclamazione del regno come? In parole e in opere. Ecco, abbiamo il discorso della montagna, nel capitolo che abbiamo visto dal 5 al 7, poi il ciclo dei miracoli, i capitoli 8 e 9, Gesù guarisce ogni malattia, il discorso missionario, capitolo 10, la prima serie di reazioni negative che occupa i due capitoli dall'11 al 12, il discorso parabolico, capitolo 13, la seconda serie di reazioni non positive, però Pietro che riconosce Gesù come il figlio di Dio. Quindi abbiamo quindi questo primo culmine appunto della prima parte del Vangelo proprio nel capitolo 16 al versetto 20, quando San Pietro afferma, dopo che San Pietro al versetto 16 ha affermato se Cristo è il figlio del Dio vivente, Gesù proclama il suo essere il capo della nascente Chiesa e ordina ai discepoli di non dire a nessuno che era il Cristo. Qui finisce la prima parte, quindi abbiamo capito qualcosa di questo regno di Dio, che però ancora ha bisogno di essere rivelato, e comincia la seconda parte. Questa volta la rivelazione del mistero del regno avviene attraverso il dramma della passione, della morte e poi della risurrezione di Gesù. Quindi il discorso ecclesiastico al capitolo 18, il terzo annuncio della passione, l'ingresso del ministero in Gerusalemme, il discorso escatologico, l'abbiamo visto nei capitoli 23 e 24, e poi dal capitolo 26 e 27 la passione e la morte, e il capitolo 28 la risurrezione. Veniamo ora ai Vangeli dell'infanzia. Allora, abbiamo innanzitutto la genealogia secondo San Matteo, il primo capitolo. Sapete che questo si legge proprio in questi giorni, durante la liturgia. Ci sono soltanto una serie di nomi che quando si leggono può diventare un po' difficile, no? Ecco, però anche questa apparente prolissità di nomi ha un senso e un significato molto importante. La genealogia di Gesù secondo San Matteo è appunto il capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 17. Al versetto primo, San Matteo dice subito: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Già questi due titoli fanno comprendere molto, perché San Luca, per esempio, fa risalire la genealogia di Gesù fino ad Adamo. E mentre da Gesù ad Adamo ci sono 77 generazioni, qui ce ne sono 42. Allora, figlio di Davide, figlio di Abramo, è il modo con cui San Matteo subito sta dicendo: attenzione, sto parlando del Messia, perché il Messia è figlio di Davide, secondo le promesse, e sto parlando anche di colui che è il compimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento. Sapete che Abramo è il capostipite del popolo di Israele, che poi attraverso Isacco e i 12 figli di Giacobbe si struttura nelle tuttora esistenti 12 tribù di Israele. Quindi il Messia, fondatore del regno di Dio, un regno diverso da quello di Davide, che era geopoliticamente limitato, ma il regno di Gesù è un regno universale, e al tempo stesso, appunto, compimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento che trovano in Abramo il capostipite. Ancora, troviamo alcuni, diciamo così, antenati di Gesù non proprio molto edificanti. Per esempio, in uno, San Matteo dice esplicitamente: Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Quindi Salomone fu figlio di un rapporto adulterino. È una drammatica storia quella tra Davide e Bezzabea, appunto la moglie di Uria, molto ben spiegata nei libri del profeta Samuele, che avrebbe causato tanti guai a Davide. Eppure, vedete, questo particolare, insieme a altri due o tre nomi, insomma, di donne non proprio altamente edificanti, e non è altro che la dimostrazione di quello che noi diciamo, che Dio scrive dritto sulle righe storte. Ancora, lui stesso specifica al termine della genealogia, della lunga genealogia, che queste generazioni, che sono in totale 42, sono suddivise per tre gruppi da 14 generazioni. Vedete il numero 3. 14 e 7 per 2, per un totale di 42. Attenzione, qui ci vuole un pochino di cultura biblica che sicuramente gli ascoltatori di San Matteo avevano, perché 42 erano esattamente le tappe che il popolo di Israele aveva fatto durante i 40 anni di percorso nel deserto prima di entrare nella terra promessa, chiaramente sotto la guida di Mosè. Quindi Gesù è il nuovo Mosè che guida il nuovo popolo di Dio, rappresentato da questo piccolo resto che è la Chiesa, dove dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio, redenti dalla passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi capite come tutto ha un grandissimo senso. Infine, sempre per dire qualche altra cosa su questa genealogia, l'ultima parte: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Attenzione, che anzitutto specifica che dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo, non dice dai quali. Ecco, Ma poi specifica appunto il titolo di Giuseppe come sposo di Maria, non marito di Maria. Appunto, e per far comprendere come questo fu un fatto unico, Giuseppe e Maria sono stati veri sposi, ma non marito e moglie. Significa che San Giuseppe ha rispettato l'integrità di Maria, non soltanto in ordine alla generazione di Gesù, ma anche dopo, perché sempre sposo viene chiamato San Giuseppe. E che quindi la generazione di Gesù, come poi spiega nei Vangeli dell'infanzia, è avvenuta miracolosamente per opera dello Spirito Santo. Ecco. Voi sapete che c'è differenza tra sposo e marito, perché anche oggi una coppia di giovani che celebra il matrimonio, quando esce dalla chiesa, sono sposo e sposa, diventano marito e moglie tecnicamente dopo la prima notte di nozze, consumando il matrimonio, e solo consumando il matrimonio, voi sapete che il matrimonio diventa assolutamente indissolubile da qualunque autorità umana. Prima della consumazione, sapete che il Papa, volendo, potrebbe sciogliere quel vincolo matrimoniale non ancora sigillato dal segno dell'essere una sola carne. Infine, e così concludiamo questa prima parte introduttoria, chiaramente un pochino ridotta, poi avremo modo di approfondire meglio, ecco, le sezioni di approfondimento fin dalla prossima volta, ecco, dei vari punti del Vangelo. Abbiamo questo ciclo di San Giuseppe. Ci sono tre apparizioni angeliche a San Giuseppe. Quando? La prima in sogno, per dire a San Giuseppe che non avrebbe dovuto avere paura di prendere con sé Maria sua sposa, perché quanto veniva in lei era frutto dello Spirito e opera dello Spirito Santo. Come ho detto nei giorni scorsi, anche durante qualche omelia che ho fatto nei confronti di questo Vangelo, non abbiamo idea di comprendere quanto sia grande la statura che emerge di San Giuseppe, ecco, in questo episodio, ecco, che fa una cosa completamente assurda, quindi umanamente parlando, che è appunto quella di prendere tempo dinanzi ad una evidenza schiacciante, e che viene liberato attraverso questa rivelazione avvenuta durante il sogno. Ecco, San Giuseppe è anche l'uomo del silenzio, facciamo notare nei giorni scorsi, perché abbiamo uno schema qui. Praticamente ogni volta che San Gabriele parla a San Giuseppe nel sogno, abbiamo una notazione: Giuseppe si desta e fa quello che gli è ordinato l'angelo del Signore. Quindi uno che sta in silenzio, il silenzio è la dimensione dell'ascolto di Dio. Quindi poche chiacchiere e molti fatti, perché poi appena l'angelo gli dice di fare qualcosa, immediatamente lo fa. Dopo l'intervallo, ecco, dell'indurimento di Erode, che vedremo, e l'adorazione dei magi, quindi noi mettiamo le immagini nel presepe soltanto perché San Matteo ce l'ha raccontato questo episodio, abbiamo le altre due apparizioni, cioè uno, quando San Gabriele appare in sogno a San Giuseppe per avvertirlo delle male intenzioni di Erode. E anche qui troviamo: egli alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese del scusate, ed entrò nel paese di Israele. Partono, vanno via. No, scusate, ho letto più in basso. Scusate, ecco qua. Prese, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre, e nella notte fuggì in Egitto immediatamente. La terza apparizione è quando San Gabriele avverte della morte di Erode, e di nuovo gli appare: prendi con te il bambino e sua madre, vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Di nuovo egli alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Quindi questo verbo, San Giuseppe che si alza. Alzarsi in ebraico, il verbo cum significa sia alzarsi che proprio risorgere, quindi questa prontezza, capite? Quindi queste ordini che Dio dà attraverso il suo angelo, che immediatamente proiettano San Giuseppe in una vita che comporta una morte a se stesso, d'accordo? E una immediata risurrezione, morte a se stesso, nel senso che un annientamento, ecco, dei propri pensieri, dei propri desideri, dei propri piani, per entrare e vivere completamente abbandonato nell'ottica di Dio. Ora, il fenomeno dell'indurimento di Erode e dell'adorazione dei magi è da leggere nella prospettiva di tutto il Vangelo di San Matteo. Abbiamo detto che San Matteo si rivolge ad Israele, il Gesù di San Matteo, però da Israele viene rifiutato e quindi gli apostoli si rivolgeranno ai pagani. Ecco, nell'episodio dell'indurimento di Erode e dell'adorazione dei magi c'è una prefigurazione di ciò che sarà la vita di Gesù. Cosa succede? Erode era ebreo, era re in Galilea, e quando sa della nascita di Gesù, che cosa fa? Si indurisce, comincia a temere per il suo trono e ordisce la strage degli innocenti, cercando anche di trarre in inganno i magi. I magi a loro volta sono persone provenienti da molto lontano, quindi immagine dei pagani che fanno un viaggio immenso per andare ad adorare uno sconosciuto bambino, pur non avendo nulla a livello di profezie e di altre cose che potesse o dovesse indicargli che quel bambino era il Messia promesso. Quindi in questo senso, prefigurando quella che sarebbe stata l'ingresso dei pagani nella Chiesa e purtroppo, ecco, la volontaria estromissione del popolo di Israele dalla salvezza venuta a portare da Gesù, conseguente, diciamo, al mancato riconoscimento di lui come figlio di Dio. Al tempo stesso, la strage degli innocenti, che celebreremo il 28 di dicembre, è una oscura prefigurazione dell'esito drammatico di questo rifiuto che avrebbe portato al dramma della crocifissione e della morte di Gesù. Dramma certamente umano, ma che avrebbe significato, ecco, l'inizio della redenzione. Con questo oggi penso che possiamo fermarci. Ecco, come vi accennavo, dalla prossima volta cominceremo ad entrare dentro, ecco, il Vangelo, attraverso l'analisi, ecco, dettagliata di alcune sue singole sezioni che ci aiuteranno a gustare ancora più, ancora meglio, questo vero capolavoro dottrinale, ripeto, che è appunto il Vangelo di San Matteo Apostolo. Appuntamento quindi alla prossima puntata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi alleniamo la velocità sul lavoro. Cominciamo! Muovere quelle dita sulla tastiera. Hop, hop, hop. Inviare quei documenti. Forza! Ora le email. 1, 2, 3, 4, 5. C'è un modo più semplice per andare più veloce. Power 4G. Solo con Vodafone Business, per te che hai la partita IVA, la tua rete fissa arriva fino al doppio della velocità grazie all'unione con la rete mobile. Attiva ora Power 4G e scopri tutti gli altri servizi per la continuità del tuo business su voda.it/power4G. Ricetta per un panino perfetto fatto in casa. Prendete gli ingredienti, metteteli da parte e con un clic ordinate da Burger King. Con il delivery gusti i tuoi menù preferiti in tutta sicurezza e senza muoverti da casa. Burger King, a modo tuo.